Siete pronti? Questa è Sassari del 2001. Flashback bastardi, bastardi. Pochi mesi, tirando fuori giorni da un calco. Non mi danno un palco, io mi do all'alcol. Nella località capita chi si capitola. Al cavallo pazzo, un bel amico di Caligola. Se nato li disà, più fuori di testa che fuori di qua. Si resta al minimo storico, il picco più basso da 20 anni fa. Comico un cazzo, sto casino zocca mentre il pubblico perde il pelo pubblico, grattandosi i testicoli. Sotto al grattacielo con soprannomi ridicoli, per parlarci psicali. Ecco tu del genere. Come Guns N' Roses, fra scime con la scime, colibri con la cirrosi. C'è mezza Sassari che tenta di fotterti, e l'altra mezza fa finta di non conoscerti. Stravaganza e prepotenza, fai scala a Valencia, scompai come Cudini. Tu mi dici futtidini, ma che chi ti Cudini, rusa e masci. Più paranoia che attendendo il whisky in Tennessee. No dischi, ma gussi e sarà schifo al Mary Pickford. Ziguli da Simon, mi affarò per il primo che si inietta. Non vi mollo manco una linetta, esperto di SS. SOS, le serate sempre stesse, mentre ci butto un'estate di introcesse. Persone perplesse, perdurano nel per scutarmi per loro interesse. Che volete da me? Fanculo. Sto posto sopra ogni funzione, definizione non venuta in più. Esperienze grazie déjà vu. Cagnotta a bocca, ma cagazzo sei tu. L'ansia butta giù l'uraghi, sfonda, effetto ariete. Bestie rare, bestie varie, nessun limite ad ogni barbarie. Datemi un martello, sti cazzi, voglio un macete. Suppongo di essere Livingstone, voi chi cazzo siete? Da tanto pisciare ho stonaccato la parete. Un dipendente da Von Wuster. S-S-A-S-S-S-A-R-I. Già lo sai, la gente sta uscendo di sotto, ma sci. La gente ne ha fin sopra i capelli così. S-S-A-S-S-S-A-R-I. El guy, la gente sta uscendo di sotto, ma sci. La gente sta sparandosi in vena così. Sono tornato più brutto, in mano un torbato brutto. Su un tram chiamato desiderio, sempre a tu per tu. Con pizzine truccate, troppini, scemi di guerra. Vecchie puttane, decadenza faccia a terra. Desperado, salo, stato brado. Sassari, luogo di fallito. Stress, quattros. Senza tessera, per sei serate è squarto. Momenti bui fino a meno un quarto. Colpi che non do, dimmi cosa fai per sto mondo. Scarichi vita a mezzo capo byte per secondo. Lo sputo l'inchiostro, un polpo e dimostro. Imposto birre nel zillere ad ogni chiosco un mostro. Compari scompaiono come aghi nei pagliai, laghi nei ghiacciai. Io mashiro usai perversioni chimiche, paste dentai. E il guy non dirmi che c'è neuroni stand by. Noi pezzi del domino, scende giù il soffitto. Città che non fa vast, 12 anni in trasco e pitbull. Vodka e Red Bull, sparse in carriera. Cacciato grosso, S-A-S-S. Ari baranoia, ande nora mara oia. Un'altra sera di safari, da voi si fari. A chi usai mashi, chi, chi, a chi anda gussia yo. S-S-A-S-S-S-A-R-I. El guy, la gente sta uscendo di sotto mashi. La gente sta sparandosi in vena così.